Partiamo dalla base che ha portato a questa situazione. Da 2 anni l'Unione Europea sta discutendo sull'introduzione di criteri unici, validi in tutti i 28 paesi, attraverso i quali certificare con una sorta di bollino verde gli investimenti e gli strumenti finanziari che vengono realizzati per sostenere il miglioramento economico in ottica di decarbonizzazione, cioè di riduzione dell'impatto climatico. Questa griglia di requisiti a cui gli investimenti e gli strumenti finanziari devono rispondere per ottenere il bollino verde viene chiamata con un gergo tecnico tassonomia. Il Parlamento europeo già nel 2018 aveva detto che, ragazzi, serve la tassonomia per definire gli strumenti e i finanziamenti verdi, introduciamola più presto possibile con il lavoro di una commissione di tecnici in maniera che la politica ne resti fuori e facciamola entrare in vigore il 1 luglio del 2020. Mercoledì di questa settimana invece la riunione dei rappresentanti permanenti dei governi dei 28 paesi dell'Unione Europea al Consiglio dell'Unione Europea ha detto no, non dobbiamo introdurre subito la tassonomia, la facciamo slittare invece che al 1 luglio 2020 al 1 gennaio 2023, quindi 2 anni e mezzo di ritardo. Soprattutto modifichiamo dal punto di vista tecnico queste regole per poter consentire che vengano introdotte fra le attività che prenderanno il bollino verde anche attività legate al nucleare e al carbone. Quindi sostanzialmente il carbone e il nucleare considerati fonti sostenibili? Diciamo una cosa diversa, diciamo che c'è stato uno scontro al calor bianco al Consiglio europeo tra due visioni diverse. Da un lato c'erano la Germania, l'Austria e il Lussemburgo che hanno detto no al nucleare, non possiamo inserire tra gli investimenti che avranno il bollino verde il nucleare. Dall'altro lato c'era invece la Francia che sul nucleare pubblico ha investito moltissimo, che ha raggruppato dietro di sé anche alcuni paesi dell'Est Europa che invece dipendono molto dal carbone per il loro approvvigionamento energetico. La posizione della Francia e dei paesi dell'Unione Europea dell'Est Europa ha avuto la maggioranza qualificata e quindi è stata approvata. Questo non significa necessariamente che il nucleare o il carbone avranno il bollino verde, ma significa che però non saranno neanche necessariamente esclusi, quindi la situazione andrà verificata caso per caso, ma è aperta. E qui entra in gioco la posizione della politica, perché mentre prima il Parlamento chiedeva che su queste questioni decidessero soltanto i tecnici, quindi cercando di lasciare fuori il più possibile le spinte politiche che arrivano dai diversi governi, adesso il Consiglio d'Europa ha detto, il Consiglio dell'Unione Europea ha detto no, a decidere devono essere i governi. Questo riporta indietro tutta la discussione, infatti il Parlamento europeo è già parecchio sulle barricate, specialmente la formazione dei Verdi, e si inizierà un lungo percorso di mediazione a tre, il cosiddetto trilogo, fra le 3 istituzioni comunitarie coinvolte, che sono il Parlamento europeo, la Commissione e il Consiglio. E da questa mediazione, che potrebbe essere molto lunga e laboriosa, usciranno le nuove regole. È chiaro che però si sposta avanti la lancetta di 2 anni e mezzo. Mentre appunto in questi tempi si fa sempre più appello all'urgenza di intervenire su questi temi. Ti chiedo un'ultima riflessione più generale, appunto, perché abbiamo colto anche dal tuo resoconto come gli interessi economici nazionali, anche strategici, se parliamo ad esempio per il nucleare della Francia e più in generale questo modello di sviluppo, portino a delle resistenze a un cambiamento da parte degli stati. Sicuramente è così, il problema è un problema di carattere generale. Allora, l'Unione Europea si è data degli obiettivi di decarbonizzazione dell'economia che sono fissati per il 2030. È chiaro che avere 10 anni a disposizione invece che averne inverne 7 fa la differenza. Su questo fronte l'Unione Europea stessa ha detto noi non abbiamo risorse finanziarie sufficienti a varare un piano reale di decarbonizzazione dell'economia, ci serve un'alleanza strategica con i settori privati perché dobbiamo convincere i settori privati a collaborare con noi per il raggiungimento degli obiettivi verdi. La tassonomia, questa regola diciamo per dare il bollino verde, è un passaggio fondamentale per il coinvolgimento dei privati. È chiaro che in questo confronto tra l'aspirazione pubblica dell'Europa a ridurre l'impatto ambientale e gli interessi dei privati a poter ottenere il bollino verde in modo da catalizzare su di sé gli investimenti, si crea una grossa frizione, insomma. Tutti vorrebbero avere il bollino verde, il rischio che lo abbia anche chi in realtà non lo merita o fa il cosiddetto greenwashing, cioè presenta le sue attività come attività verdi quando in realtà di verde non hanno niente. È una discussione molto forte. Io credo che la posizione del Parlamento europeo sia la posizione più corretta, che non ci sia tempo per discutere e per rimettere in movimento tutta la trattativa, e quindi mi auguro che tutta la società civile nei prossimi mesi, su questo che sembra un tema molto tecnico ma in realtà è un argomento molto concreto, faccia sentire la sua voce per rafforzare la necessità di portare il più alla svelta possibile a casa il risultato di avere delle regole strette, valide per tutti, sulle attività finanziarie verdi.